compagna di Clitoristrix, ciao. Ciao, sento pochissimo Olga. Mi senti bassa, ok, urlerò. Okay. Allora, se ci racconti com'è andata la mobilitazione di venerdì. Sì, mi faccio sentire molto volentieri per aggiornarvi. Allora, ciao a tutte, venerdì, come avevo comunicato nell'altra diretta di martedì scorso, c'è stato un presidio che è stato appunto una prima risposta pubblica al fatto che ci sia stato insomma intimato di lasciare lo spazio nel quale siamo state per 10 anni in occupazione, per 3 anni in convenzione. E diciamo che quindi la manifestazione, il presidio di venerdì è stata una prima risposta pubblica alla quale hanno presenziato, diciamo che il sostegno è stato molto trasversale, perché noi siamo uno spazio particolare per cui c'erano sia moltissime donne appartenenti a gruppi di donne, in realtà, e a luoghi di donne sul territorio e di lesbiche, sia il MIT e altre realtà insomma che fanno che si occupano di politica GLBTQ e poi c'erano gli spazi sociali e c'era l'area dei punk, diciamo, che sono gli altri compagni e amici che abbiamo dentro Atlantide, che si curano di musica e di produzione indipendente, di produzioni musicali indipendenti, e varie soggettività, individui sciolti e sciolte che sostengono Atlantide da sempre. È stato, diciamo che simbolicamente, siccome la risposta che noi diamo alla commissaria straordinaria, perché Bologna è una città commissariata, che voleva destinare il nostro spazio a realtà che si occupassero di tutela ambientale, e come già dicevo la scorsa volta, ce la siamo giocate sul fatto di dire che siamo noi la vera biodiversità, che siamo noi l'aria più respirabile, quindi abbiamo fatto scendere un prato lunghissimo da una finestra di un palazzo del centro, sul quale erano spuntati punk in fiore, femministe in erba, lesbiche in erba, boccioli di trans e finocchie selvatiche che hanno coperto il prato, insomma. E poi durante il presidio abbiamo dato gli argomenti, insomma, per i quali Atlantide è uno spazio irrinunciabile per le femministe, per le lesbiche, per le donne, per i gay, insomma, e anche per chi si occupa di autoproduzioni musicali. Abbiamo detto che è una città che è commissariata per questioni di sesso, potere, denaro mescolato, il minor risarcimento che può dare quello di non andare a toccare gli spazi delle donne, sicuramente, e di quelle che lavorano per le donne, che hanno come primo e ultimo pensiero le donne. Abbiamo spiegato alla piazza chi siamo, nel senso che per noi è fondamentale rinforzare le motivazioni che sostengono lo spazio, perché non abbiamo appoggi politici, abbiamo solo i nostri percorsi, e quindi anche come femministe e lesbiche separatiste abbiamo spiegato che per noi è uno spazio irrinunciabile, perché è uno spazio nel quale non abbiamo mai dovuto rendere conto delle nostre pratiche, non abbiamo mai dovuto giustificarle o spiegarle in un lavoro di cura estenuante, e non abbiamo mai dovuto difenderle fisicamente, cosa che altrove accade, insomma. E diciamo, per cui è stato tutto molto chiaro, abbiamo fatto questo presidio, poi abbiamo deciso anche di spostarci, nonostante non fosse previsto, per andare verso Atlantide, e abbiamo toccato un'altra piazza del centro, dopodiché abbiamo sciolto là il presidio e abbiamo raggiunto la sede, che era lì a 100 passi, per brindare alla prosecuzione del nostro percorso. E questo insomma è il resoconto del presidio. Poi diciamo che rispetto all'aggiornamento c'è un aspetto burocratico, tecnico burocratico, che purtroppo ci coinvolge, perché noi siamo stati per 3 anni in convenzione. Nonostante la nostra aspirazione fosse quella di tornare ad uno status originale nel quale eravamo appunto in occupazione, invece ci sono tutta una questione di una serie di questioni tecniche che dobbiamo vedere col quartiere che ha competenza, per cui abbiamo fatto anche un incontro, il primo incontro, infatti per questo abbiamo voluto far precedere la manifestazione, un incontro con il quartiere nel quale abbiamo sostanzialmente fatto capire che non siamo intenzionati a lasciare lo spazio. Loro sostengono che faranno un altro bando, cioè loro hanno appunto steso questo bando nel quale noi non ci riconosciamo per niente, non riconosciamo che la nostra peculiarità possa essere compresa nella valorizzazione dell'ambiente, ok, anche come abbiamo detto, però cioè, noi avevamo pensato fosse stato fatto apposta per farci fuori. Stiamo valutando, comunque loro dicono che noi siamo un'attività culturale per cui a pieno titolo potremmo ripartecipare, per cui insomma stiamo vedendo questi aspetti anche tecnici per capire insomma quale sia il modo per non cedere assolutamente lo spazio. Questa è la situazione, abbiamo avuto sostegno, sono arrivate circa 300 mail anche da altre parti d'Italia, e infatti vi consigliamo di andare a vedere il blog, dal quale io evidentemente la scorsa volta ho dato un indirizzo sbagliato, ci riprovo, ma chiedo a Olga di fare di meglio. Beh, noi l'abbiamo trovato, sì, che Atlantide trattino alto. Non ti sento praticamente. Non mi senti, mannaggia. Vabbè, spero chi ascolta sì. Il blog è atlantide-resiste.blogspot.com. Esattamente. All'interno del blog, dove troverete tutti gli aggiornamenti, anche delle bellissime foto della manifestazione, se volete andare a vedervele. Ci sono anche gli indirizzi appunto sia del quartiere che della commissaria straordinaria alla quale far pervenire ancora, perché al quartiere ci hanno detto di aver ricevuto, di aver letto tutta questa serie di mail significative, per cui insomma noi vogliamo continuare a far presente che modo... Atlantide è uno spazio che in questa città può solo portare un po' di evoluzione. Certo. E questo insomma siamo andati a dire, sono stata fin troppo lunga. Benissimo, no le cose da dire sono queste, per cui insomma benissimo, è appunto richiestissimo questo spazio. Grazie a te Franca, ci sentiamo ovviamente, ci teniamo in contatto, sono luoghi ovunque si trovino importantissimi per noi da difendere e per cui insomma siamo con voi ovviamente. Lo sappiamo, un abbraccio, grazie. Un abbraccio, ciao a tutte, ciao.